Blu Radio Veneto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Ben ritrovati da Mirko Cavallini in studio, col supporto di Eddie Daice e di Francesco Galante. La serata di oggi vi propone l'ampia sintesi della mattinata che sabato 13 maggio è stata dedicata nella parrocchia di Sant'Antonino all'Arcella alla presentazione del report 2016 della Caritas diocesana, in particolare l'Osservatorio delle Povertà e delle Risorse. Ne abbiamo già parlato nella rubrica del martedì dedicata proprio alla Caritas. Trovate già un'ampia anticipazione nella nostra sezione podcast del sito bluradioveneto.it. Questa sera invece lo spazio di ascolto più completo di quella mattinata, dove ritroveremo la voce di Daniele Salmaso, coordinatore proprio dell'osservatorio, di Don Luca Facco, direttore della Caritas diocesana, di Walter Nanni di Caritas Italiana, tutte le voci coordinate da Sara Melchiori, direttore dell'ufficio stampa diocesano. Però cominciamo con l'intervento e il saluto del vescovo Claudio. I giorni della Chiesa. Io devo solo salutare, perché so di essere più un segno. La Caritas parla di opere segno, io sono un uomo segno, e che vuole portare la vicinanza, la condivisione di tutta la nostra diocesi. Cioè, in queste iniziative della Caritas noi ci giochiamo tutti come Chiesa, non è soltanto un settore o un'associazione, è la diocesi che si esprime, che sta cercando questo, e in questo senso la mia presenza diventa un segno. Però, anche se sono solo un segno e so che devo essere breve, non mi viene di star zitto del tutto. Quindi due o tre cosette le volevo dire, soprattutto legate ad un percorso che mi sembra ci debba accompagnare, perché voi siete qua innanzitutto come centri di ascolto, e l'ascolto, voi ne avrete un po' di esperienza, perché sono tutti passaggi che penso siano quelli della nostra esperienza. L'ascolto attento, profondo, di una persona in difficoltà, un ascolto che qualche volta diventa troppo frettoloso e quindi perde questa qualità, e noi invece vorremmo, non essendo legati nemmeno ad uno stipendio, ma a un sentire del nostro cuore, che questo ascolto diventasse, si trasformasse anche in uno sguardo che noi diamo alle persone che incontriamo. E il modo con il quale guardiamo tradisce anche la qualità del nostro ascolto. E dall'ascolto allo sguardo credo che sia quasi uno stesso modo con il quale ciascuno di noi si mette in relazione con le persone che sono in difficoltà, le più diverse, che noi accogliamo partendo da atteggiamenti che dobbiamo continuamente verificare perché non facciano da filtro all'incontro vero. E in effetti lo sguardo poi ha bisogno di essere completato con un altro passaggio, che è quello dei gesti. Anche le nostre piccole cose sono innanzitutto un gesto con il quale ci prendiamo carico o manifestiamo, no, un nostro sentimento, un nostro modo di relazionarci con chi si trova in difficoltà. Quindi dall'ascolto si richiede uno sguardo misericordioso, in qualche parte potremmo dire anche uno sguardo di tenerezza, ma questo sguardo di tenerezza ha bisogno di diventare pratico, ha bisogno di gesti che siano adeguati al bisogno, che siano adeguati all'attesa della persona che noi abbiamo davanti, ma l'attesa quella più profonda, che spesso è molto di più del bisogno per la bolletta o di quell'intervento immediato che ci viene richiesto. E il gesto diventa, e questo qui è un ulteriore passaggio, deve diventare sempre incontro fraterno, incontro tra persone, magari si potesse dire incontro tra amici. Ed è molto bello quando, incontrando le persone che abbiamo potuto aiutare, abbiamo avuto la grazia di aiutare per conto della comunità, veniamo salutati come conoscenti e come amici dalle persone che noi abbiamo aiutato. E in questo veramente ci sono esperienze molto belle. Quando l'anno scorso c'era stata l'avventura delle cucine popolari, io ho usato un'espressione, non è che l'avessi proprio meditata, ma ho detto, sono venuto a trovare degli amici. Ed era bella, poi mi sono riconosciuto in quell'espressione. Ecco, lo sguardo, l'ascolto richiede uno sguardo, lo sguardo richiede un gesto, perché questo gesto ci deve portare proprio all'incontro tra amici e tra fratelli. E perché questo sia vero, penso che ci sia un ulteriore percorso che noi possiamo compiere, ed è quello di sentirci insieme nel cammino, non sempre noi che aiutiamo, ma noi che insieme con gli altri, insieme con le persone in difficoltà, camminiamo verso la stessa direzione. E questo mi sembra che sia il risultato del nostro ascolto. Portare la Chiesa a camminare insieme con le persone in difficoltà. E questo è il vostro compito, il nostro compito. Noi dobbiamo metterci dalla parte delle persone che sono in difficoltà, perché l'ascolto, lo sguardo, la stretta di mano richiedono di essere autentici. E per essere autentici vuol dire che lottiamo insieme, lavoriamo insieme, camminiamo insieme verso degli ideali che sono senz'altro condivisi, anche se non sono sempre espressi. Ecco, il vero incontro avviene nel camminare insieme, il vero ascolto avviene nel guardare insieme agli stessi ideali, agli stessi valori, che sono alla fine quello del riconoscere la dignità di ogni persona. E di riconoscere la giustizia che deve essere offerta a tutti. Ecco, questo mi sembra che sia il percorso. Quindi il nostro piccolo servizio, che definiamo di ascolto, qualche volta di beneficenza, in realtà è come una occasione che noi abbiamo per metterci in cammino come Chiesa, lasciandoci portare, provocare e chiamare dai poveri che noi abbiamo la gioia di poter incontrare, perché sono nostri fratelli, li conosciamo come tali, e per tutte le motivazioni spirituali ed evangeliche che noi conosciamo. Quindi vi ringrazio, questo è il mio come segno della Chiesa, vi ringrazio per quello che state facendo nel trascinare tutta la Chiesa in questo cammino. Grazie al Vescovo Claudio, che ricordava appunto questo aspetto del camminare insieme. L'osservatorio, la richiesta di costituire nelle Caritas un osservatorio delle povertà e delle risorse, nasce proprio da convegno ecclesiale della Chiesa italiana di Loreto. Nella nota pastorale successiva, la Chiesa in Italia dopo Loreto, si scriveva appunto rispetto all'osservatorio, doveva essere uno strumento per aiutare la comunità cristiana a osservare sistematicamente le situazioni di povertà, di disagio, di emarginazione, di esclusione presenti sul territorio e le loro dinamiche di sviluppo, comunicando e rivolgendosi alla comunità ecclesiale e all'opinione pubblica, favorendo, ecco qui il camminare insieme, il coinvolgimento e la messa in rete dei diversi attori sociali impegnati sul territorio. Credo che questo sia il percorso che Caritas con l'osservatorio sta facendo, e quindi passo la parola a Don Luca Facco per entrare nel merito del report. Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti. Ecco, presenteremo i dati raccolti dai centri di ascolto vicariali nell'anno 2016. Ecco, il 2016 è stato un anno segnato ancora dalla profonda crisi economica. Lo vediamo costantemente anche attraverso il Fondo Straordinario di Solidarietà, che è un fondo che mette insieme, per fortuna, tutte gli enti, il privato sociale, la fondazione, il comune, la provincia, la diocesi, la Camera di Commercio, e lì constatiamo come la crisi economica, con la perdita del lavoro, sia ancora forte, soprattutto giovani che non entrano e cinquantenni che non riescono a trovare lavoro. È un anno segnato dalla profonda e continua trasformazione delle aziende, trasformazione dei servizi sociosanitari che sono in continua evoluzione. Abbiamo adesso la nuova ULSS 6 che avrà delle ricadute molto concrete poi anche nella vita delle persone. Per cui un anno segnato sicuramente dalla trasformazione. E stare dentro la trasformazione, il cambiamento, non è semplice. Un anno segnato anche, ancora anche quest'anno, il 2016, segnato dall'arrivo dei richiedenti protezione internazionale. Arrivo che sta generando tensioni nelle nostre comunità, perché siamo impreparati e non c'è una politica capace di gestire anche in maniera forte, proprio con regole chiare, con controlli, tutta questa partita. E in questo noi siamo impegnati come diocesi, non tanto come enti gestori, perché non lo siamo, ma siamo impegnati soprattutto nella formazione e informazione delle parrocchie, perché le parrocchie siano disponibili a mettere a disposizione locali per l'accoglienza. E attraverso le microaccoglienze abbiamo constatato in questi anni come l'integrazione è possibile e non generano tensioni, perché piccoli numeri sono assorbibili e diventano quasi un'opportunità per il territorio stesso. Per cui un anno segnato da questo arrivo di giovani che va accompagnato con attenzione, ma anche con una forte determinazione. È un anno segnato anche se noi solo così a livello informatico, a livello così di comunicazione, ma segnato anche dal terremoto nel centro Italia. Molte regioni, Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria. Un terremoto diffuso sia a livello proprio di capillare, ma anche nel tempo costante. Io ho avuto la possibilità la settimana scorsa di essere a Norcia una settimana e ancora la terra trema. La gente, pur essendo resistente, perché sono montanari, ma la paura è forte. E quando ti crolla la casa, insomma, questo ci da una parte ci costringe ad essere presenti lì, ma anche ci aiuta a relativizzare i nostri problemi. Non dimentichiamoci, insomma, di questo terremoto così forte che ha colpito nuovamente l'Italia. Quindi in questo anno è continuato il lavoro delle Caritas attraverso i territori, delle Caritas parrocchiali, dei volontari, dei centri di ascolto, a cui diamo un minimo di visibilità attraverso questo rapporto. E in questo rapporto ascolterete tanti numeri, i giornalisti chiedono sempre numeri, dati, perché è la cosa che più è appetibile, sapere i numeri e i dati. Però nella mia introduzione io vorrei, più che numeri, che vi daremo, insomma, perché è importante poi anche dare dei dati, perché sono proprio anche oggettivi, però vi vorrei mettere in luce in particolare le storie, perché ciò che a noi interessa sono soprattutto le storie delle persone, perché dietro una storia ci sono i racconti delle fatiche, delle sofferenze delle persone, ma in filigrana si percepiscono anche le risorse, le capacità delle persone, la capacità di resilienza, la speranza, la volontà di riemergere, per cui si impara ascoltando le storie. E l'unico modo che abbiamo proprio di trovare le soluzioni è ascoltare le storie delle persone, perché loro ci raccontano i problemi, ma lì in filigrana si possono anche percepire le risorse e le soluzioni. Per cui vi chiederei proprio di prestare attenzione non solo ai numeri, ma anche leggete con attenzione le storie delle persone, perché è il nostro veramente capitale più importante che abbiamo, metterci in ascolto. E come ci diceva il Vescovo, a noi la capacità di ascoltare, di accompagnare, ma dall'ascolto e dall'accompagnamento nasce uno sguardo. E lo sguardo fa la differenza. Guardo le persone solo come dei bisognosi, a dei poaretti, o guardo alle persone come persone capaci di riemergere, capaci di avere delle risorse, aiutare le persone a riconoscere le loro risorse. Allora le persone che abbiamo di fronte non sono solo poaretti, sono persone con povertà, che stanno attraversando una crisi, ma che hanno delle risorse. Lo sguardo fa la differenza con cui noi incrociamo le persone, per cui si sente che il nostro vescovo è stato parroco ma anche direttore della Caritas, per cui si percepisce dalle sue parole, insomma, questa attenzione allo sguardo, fa veramente la differenza, come guardiamo le persone. Poi abbiamo voluto approfondire proprio un focus in particolare sulla questione delle utenze, perché? Perché i volontari dei centri di ascolto ci segnalano proprio questo, che la maggior parte delle persone che vengono da noi, in prima battuta, così, la prima cosa che ci portano sono le bollette. È, come dire, a volte il pretesto per entrare, ed è una realtà con cui ci dobbiamo confrontare continuamente. Le utenze sono beni primari, luce, acqua, gas, sono beni primari, l'acqua. Quando ti si presenta a famiglia a cui viene tagliato l'utenza dell'acqua, ecco, bisogna confrontarci con questa realtà. È una realtà che non fa rumore, che non fa notizia, ma è radicata e diffusa nelle nostre città. Famiglie a cui vengono tagliate le utenze. Chi sono queste famiglie a cui vengono tagliate le utenze? Ve lo dico in maniera molto semplice. Chi di noi non ha un familiare, un parente, un amico, un vicino di casa, ma tutti noi ce l'abbiamo, a cui è in difficoltà col pagamento delle utenze o che ha perso il lavoro? Chi di noi non ne ha uno? Chi di noi non ne conosce almeno uno? Per dire come è diffusa questa povertà, è molto diffusa, anche se non fa rumore e non fa notizia, perché spesso le persone si vergognano e non hanno neanche il coraggio di dirlo a nessuno. Per dire quanto le persone si vergognano, ma per dire anche quanto è diffusa questa povertà. Ecco che allora abbiamo voluto approfondire proprio l'attenzione a questa povertà, facendo che cosa? Mettendoci innanzitutto in ascolto dei volontari, per cui abbiamo fatto dei focus ascoltando i volontari, cosa i volontari ci segnalavano rispetto a questa questione. Ma poi abbiamo voluto fare un passo oltre mettendoci in confronto con gli enti erogatori, per cui abbiamo fatto dei focus group con gli enti erogatori, capire come loro vedano questa situazione e come la stanno gestendo dal loro punto di vista. E poi abbiamo voluto fare anche degli approfondimenti in relazione con le assistenti sociali. Abbiamo chiesto ai volontari di andare a fare proprio un'intervista alle assistenti sociali, cosa anche loro vedono, osservano e come insieme possiamo aiutare queste famiglie in modo da non disperdere le risorse, in modo da essere più efficaci nell'aiutare le famiglie. Ecco allora l'importanza proprio di metterci in relazione con tutti quegli enti che hanno a che fare con questa problematica. Chiudo, che cosa si può fare? La convinzione di Caritas da sempre è quella di valorizzare le risorse presenti nei territori. Noi lo stiamo facendo in questi anni attraverso proprio l'implementazione dei centri di ascolto vicariali, che è la valorizzazione delle Caritas parrocchiali, ma che è anche la capacità di lavorare in rete tra Caritas, tra parrocchie. Non si può più lavorare ognuno guardando il proprio orticello, ma bisogna lavorare in rete anche in un vicariato, collaborare tra Caritas, ma anche imparare a collaborare di più e meglio tra Caritas e servizi sociali. Non possiamo più essere due enti che fanno ognuno i propri progetti. Bisogna imparare, anche se con fatica, perché abbiamo mission diverse, ma è fondamentale la collaborazione per non disperdere le energie. La crisi ci può solo insegnare a diventare più comunità. La crisi la si affronta diventando più comunità. Quindi è importante proprio collaborare fra parrocchie, servizi sociali, ma anche parrocchie con tutto il privato sociale, le associazioni. Ecco, è fondamentale i sindacati, le associazioni, è fondamentale lavorare insieme. Ci sono tante risorse nei nostri comuni, nei nostri territori, che spesso sono disgregate. Ecco, la crisi ci può insegnare proprio a parlarci un po' di più, a conoscerci un po' di più, a stimarci un po' di più, pur nel rispetto della diversità. Poi che cosa possiamo fare? Noi possiamo continuare a sviluppare la dinamica e a formarci e a formare all'ascolto e all'accompagnamento. Questo ci insegna proprio a passare dall'aiutare a pioggia un po' tutti invece imparare a sviluppare la conoscenza individuale, famiglia per famiglia. Ogni famiglia è diversa, ogni famiglia ha la sua specificità, la sua povertà, ma anche la sua risorsa particolare, specifica, da cogliere, da percepire e da sviluppare attraverso percorsi di accompagnamento. E infine, un'altra, che cosa possiamo fare? Dare le informazioni corrette. Ci sono un sacco di opportunità, di agevolazioni, ma un sacco, ma non si conoscono, cioè le famiglie, in particolare le famiglie italiane, non le conoscono. I migranti paradossalmente hanno sviluppato una capacità di muoversi nel territorio. Noi intercettiamo tante famiglie italiane che non conoscono le opportunità che poche o tante ci sono. Pensate ad esempio il SIA, Sostegno Inclusione Attiva. Quante famiglie lo conoscono? Pochissime, ma anche quanti volontari lo conoscono? Quindi è importantissimo, anche come centri di ascolto, anche fare questo lavoro, oltre che di ascolto, ma anche di dare le corrette informazioni. Perché opportunità e agevolazioni ce ne sono, ma spesso molte famiglie sono disinformate. Ecco che allora è un servizio che si offre proprio ai cittadini, proprio di essere a conoscenza, ecco, e di potersi muovere nel territorio anche con più facilità. Ecco, queste sono alcune indicazioni. Io adesso lascerei la parola proprio per entrare proprio nei numeri, nei dati, ma che vi ricordo sono soprattutto storie di persone. Grazie. Grazie a Don Luca Facco, e soprattutto nella seconda parte del report, leggendo quelli che sono gli approfondimenti e i focus fatti nei vicariati, si troveranno anche proprio questi aspetti qui che diceva Don Luca, cioè come si possono attivare delle risorse che ci sono e che non si conoscono. Quindi credo sia uno strumento molto utile e anche interessante nel territorio. Poi sapete che gli operatori dell'osservatorio sono disponibili a fare le presentazioni come gli altri anni nel territorio. Vi ricordo anche, avete visto che c'è una vela qui di fianco a me alla destra, che Blu Radio sta registrando la mattinata, e Blu Radio Veneto, e manderà un approfondimento martedì 16 e in replica venerdì 19 maggio, sempre alle 21, all'interno della trasmissione I Giorni della Chiesa. Ulteriori approfondimenti con interviste specifiche saranno invece proposte martedì 23 maggio all'interno della rubrica Prossimo Tuo. Credo che sia utile anche, magari se volete dirlo, a chi non ha potuto partecipare all'incontro di stamattina. Ora, prima di entrare in merito proprio ai dati raccolti dall'osservatorio, facciamo una panoramica un po' internazionale e nazionale, e lo facciamo con Walter Nanni, che, come dicevo prima, ha curato in questi anni la postfazione al report, e in questo caso ci ha anche ringraziato, diciamo, dicendo alla Caritas di Padova: siete un po' una apripista avendo affrontato questo aspetto della povertà energetica, però credo sia importante collocarla in un quadro più esteso. Prego. Allora, buongiorno, io sono contento di essere qui oggi perché la presenza nazionale della Caritas nazionale qui a Padova sta a indicare anche per noi quella che è la ricchezza di questi contributi che vengono prodotti in sede territoriale. Quando noi a livello nazionale riusciamo a interagire con il governo, con i governi europei, con la Commissione europea, con le conferenze episcopali nazionali, è grazie anche al lavoro di ascolto e di osservazione che voi fate sul territorio. Cioè, se non ci fossero queste 218 diocesi in Italia che osservano, ascoltano e animano il territorio anche attraverso queste pubblicazioni, Caritas Italiana potrebbe fare ben poco, potrebbe soltanto sfruttare i dati dell'Istat, dell'Eurostat, ma non avrebbe questo valore aggiunto che questi rapporti hanno. Ecco, rispetto ai dati Istat, i vostri rapporti, il rapporto sulla povertà della Caritas di Padova, ha un valore aggiunto. Ed è, come diceva il Vescovo prima, quello sguardo, lo sguardo sul povero, no? Che non è presente nei dati di un campione scientifico, statistico, è dall'ascolto della persona in difficoltà che vengono fuori queste storie, questi numeri. Quindi sicuramente questo è un valore aggiunto. L'altro valore aggiunto è che è il primo rapporto in Italia di una Caritas diocesana che si sofferma, in parte, perché non è tutto dedicato a questo tema, sul fenomeno della povertà energetica. Cioè quella povertà che riguarda la difficoltà a garantire ad una famiglia una casa riscaldata, l'elettricità, l'acqua corrente, cioè a pagare le utenze, le bollette domestiche. Questa energy poverty, questa povertà energetica, è uno dei tanti aspetti della povertà economica, e su questo bisognerebbe anche fare una riflessione, ma sicuramente in Italia una Caritas che abbia studiato, approfondito questo argomento non c'è mai stata fino ad oggi. Quindi questo è il primo esempio, che spero poi diventi non l'ultimo, ma magari succederà anche in futuro, anche per fare un confronto, no? Voi fate questa finestra di studio sulla povertà energetica nel Nord-Est. Vediamo, sarebbe interessante vedere lo stesso tipo di approccio qualitativo e quantitativo, anche questo è interessante perché avete sfruttato sia metodi di approccio statistico che interviste, focus group, anche questo è sempre utile, no? I numeri affiancati all'ascolto, alle interviste, sarebbe interessante capire poi nel centro, nel sud Italia, se la situazione è diversa. Cambia tutto naturalmente, cambia la cultura, il contesto, l'economia, cambiano anche i gestori delle utenze, i gestori, degli erogatori dell'energia, quindi sicuramente cambiano le variabili, ma alcune attenzioni possono rimanere le stesse. Quindi grande attenzione. Un altro elemento forte che sottintende questo tipo di approccio è che si può essere in grave difficoltà anche se si ha un tetto per la notte. Normalmente noi siamo abituati a pensare che le persone più sfortunate di questa terra, o almeno per quello che riguarda l'Italia, sono quelle prive del tetto, prive dell'abitazione, cioè noi senza dimora, gli homeless, le persone rifugiate che arrivano senza nessuna protezione, questo è sicuramente vero. Ma è anche vero che ci sono casi di povertà assoluta, di indigenza, di vera e propria povertà estrema, anche per coloro che un tetto ce l'hanno e che vivono all'interno di abitazioni che sono magari anche di loro proprietà, ma che sono ormai difficili da gestire, se no impossibili da gestire, con un carico di indebitamento e di spese tali da andare molto sotto la soglia della povertà assoluta. Il buon vivere non è soltanto avere l'abitazione, la casa, l'edificio, la house con l'H maiuscola, ma il buon vivere è avere anche una home con l'H minuscola, dove home sta a intendere una relazione, una buona capacità di vivere la propria casa. Quindi in questo senso la difficoltà, l'ansia dovuta al fatto che le tue bollette stanno scadendo, che non riesci più a riscaldare la casa e quindi devi tenere chiuse alcune stanze perché a quel punto scaldi soltanto la stanza dove vivi, anche quello sta a significare una cattiva qualità del vivere, e quello sicuramente è un aspetto importante. Sul poverty energy do qualche sguardo un po' nazionale, perché in un certo senso non conosco la situazione, è chiaro però che la vostra riflessione si cala in un contesto che è nazionale. Come si misura la povertà energetica? Qui abbiamo di fronte due strade. O chiedi a una persona se è in difficoltà al pagamento delle bollette, non riesce a scaldare la casa, com'è le condizioni dell'abitazione, oppure si fa affidamento a dati pubblici. Cioè si fa affidamento alla spesa media per l'energia, alla spesa al consumo per il riscaldamento dell'abitazione. Quindi sono due strade, no? O si chiede a una famiglia: come ti trovi? Sei in difficoltà a pagare le bollette? Questo è un tipo di misurazione, per così dire, soggettiva. Oppure si cerca di andare su dati assoluti, oggettivi, cioè si cerca di capire dalla statistica pubblica, di capire un po' la situazione degli italiani qual è. Tutti e due i sistemi hanno pregi e difetti. Chiaramente una persona potrebbe dire di essere in molta difficoltà e non è proprio vero, però allo stesso modo se io raccolgo dei dati, i dati statistici possono nascondere tante cose. Noi sappiamo dall'indagine sui consumi delle famiglie che l'11,1% ad esempio delle famiglie italiane è sotto la soglia della povertà assoluta, relativa, sta di fatto il problema è che ci sono differenze dei consumi che stanno a indicare situazioni di difficoltà diverse. Per cui uno, se calcola la povertà sul consumo, potrebbe essere che il tuo consumo è basso non perché sei povero, ma perché hai uno stile di vita morigerato. E quindi anche i dati che sembrano perfetti, Istat e Eurostat, sono a volte anche insufficienti. Vediamo la prima slide, che risponde al primo approccio, cioè chiedo a una persona se è in difficoltà a pagare le spese per il riscaldamento della propria abitazione. Facciamo un confronto tra l'Italia e l'Unione Europea. L'Unione Europea è la striscia azzurra, quella sotto, e l'Italia è la striscia rossa. Qui vedete dal 2010 al 2015 noi siamo sopra l'incidenza media di famiglie che sono in difficoltà per pagare le spese per il riscaldamento della propria abitazione. Nel 2015 il 21,6% delle famiglie italiane era in difficoltà a pagare le spese per il riscaldamento della propria abitazione, contro una media del 13,6%, mentre in Europa la situazione è stata abbastanza stabile in questi anni. Noi abbiamo avuto un grande aumento, soprattutto, vedete, negli anni del della crisi economica, 2010, 2011, 2012, lì si vede benissimo l'aumento fortissimo di famiglie che hanno dichiarato questa difficoltà, e questo è un dato sicuramente forte. Il dato dell'Unione Europea è stabile non perché non c'è stata la crisi in Europa, ma perché in Europa abbiamo avuto un'Europa a due velocità, un'Europa dei cosiddetti pixi, cioè i paesi deboli, Portogallo, Spagna, Grecia, Italia, Irlanda, che hanno avuto difficoltà con la crisi economica, con alti tassi di povertà, e un'altra Europa che invece addirittura ha visto una situazione stabile, se non addirittura un miglioramento. Ma anche lì i dati non dicono tutti, non dicono tutto. Pensate che la Romania è il paese dell'Unione Europea con il più basso tasso di disoccupazione, 4%. Eppure è il paese dell'Unione Europea col più alto tasso di povertà. Quindi situazioni e dati non sempre facilmente confrontabili. 21,6% delle famiglie italiane con problemi nelle spese per riscaldamento. Vediamo l'altra diapositiva, andiamo abbastanza velocemente senza andare troppo nel dettaglio, questi sono dati comunque nazionali disponibili, io posso lasciare poi queste slide. Ancora sulla misura soggettiva, cioè nel chiedere a una famiglia come va la situazione, com'è la situazione, le domande sono: ci sono infiltrazioni nella tua abitazione? Ritieni che la tua casa sia adeguatamente riscaldata? Sei in ritardo nel pagamento delle bollette? Ecco, qui dovrei dire, come diceva Don Luca, che qui ci siamo un po' tutti quanti dentro, nel senso, a volte il ritardo nel pagamento delle bollette è dovuto a un calcolo strategico familiare che dice: io pago tutto insieme fra qualche mese. Qui il ritardo è diverso, è quando tu non riesci a rispettare le scadenze da parte di erogatori dell'energia che ti dicono: io dopo 15 giorni comincio a sollecitare, non il condominio che tu dici: pago tutto insieme fra qualche mese. È diverso, ma tutti ci siamo passati, e questo è sicuramente vero, ve lo posso dire anche a titolo personale. Le infiltrazioni, come vedete, tutti i dati per quello che riguarda la situazione italiana stanno a indicare un peggioramento dal 2005 al 2012, 2005 l'anno precedente la crisi economica, 2012 siamo nel pieno della crisi economica, i dati sono tutti in peggioramento, soprattutto sulla casa non adeguatamente riscaldata, che è la linea rossa. Potete vedere proprio l'aumento dal 10 a oltre il 20% delle famiglie italiane. Passiamo adesso a un altro modo di intendere questa povertà energetica. Questo grafico non lo spiego completamente, è complicato, per dire che quando si passa da un'intervista e si chiede: la tua casa è adeguatamente riscaldata, e si passa alla ricerca di dati statistici più oggettivi, la questione diventa molto complicata, perché bisogna capire quale parametro considerare. Purtroppo non ci sono indagini campionari adeguate su questo, e quindi il dato va incrociato con tante fonti statistiche, e sono tutta una serie di parametri. Se la tua spesa energetica è troppo alta rispetto al tuo reddito, quello ad esempio è un parametro importante. La famiglia che guadagna 2000 euro e spende per il gas al mese 50 euro investe per questo il 2,5%, no? Del valore che noi abbiamo, del reddito. Lo stesso valore di 50 euro al mese, una famiglia che guadagna 500 ha il 10% del reddito che è servito per pagare la bolletta. Quindi questo potrebbe essere un parametro importante. Vedete in questo grafico come qui entrano questi dati diversi, quindi il reddito, la spesa, il consumo, la situazione di povertà della famiglia. Andiamo avanti, quindi vediamo appunto sulla base di questi dati statistici com'è la situazione dal 1907 al 2012. La linea più in alto, la successiva, è il sud Italia, quindi noi abbiamo, per quello che riguarda la PE è la cosiddetta povertà energetica, calcolata in base a dati statistici, indicatori oggettivi, e comprende riscaldamento ed elettricità, quindi sia gas che elettricità. Purtroppo questi dati escludono tutti coloro che riscaldano la casa non attraverso utenze del gas, ma attraverso bombole, legna o altri tipi di situazioni, come ad esempio il non riscaldarla affatto. La situazione più gravosa è nel sud Italia, però se voi ci fate caso, il nord Italia col 6,1% di famiglie ha una quota di famiglie in povertà energetica superiore a quella del centro Italia. Quindi anche lì bisognerebbe riflettere su questo fatto. Sicuramente le condizioni climatiche possono essere diverse e questo può influire, ma sta anche a indicare che la crisi economica ha colpito evidentemente anche zone del nord che non sono più così affluenti come in passato. Andiamo avanti, vediamo chi sono le famiglie in Italia che hanno queste caratteristiche di povertà energetica. Abbiamo detto il Sud Italia soprattutto, qui ci sono i dati, potete vedere la situazione, 13%, sono soprattutto famiglie numerose e questo è un dato comune, un po' tutti i dati sulla povertà. Tutti i dati sulla povertà ci dicono che più si hanno figli in casa, più aumentano i componenti, più aumenta il tasso di povertà. È questo un segnale allarmante che sfiducia, sicuramente scoraggia le famiglie da riuscire a portare avanti un discorso di famiglia. I giovani, 9,6% delle famiglie composte da giovani hanno problemi di povertà energetica e questo è un dato interessante perché supera di poco quelle delle famiglie degli anziani. Anche qui noi nei rapporti nazionali Caritas diciamo spesso qualcosa che non fa piacere ad esempio ad alcune categorie, alcuni gruppi. La povertà dei giovani in questo momento in Italia è più grave di quella degli anziani perché l'anziano in questo momento ha a disposizione almeno un plafond di risorse economiche che corrisponde alla pensione sociale. Il quarantenne, il cinquantenne in questo momento, se perde il lavoro e non ha un figlio minore o una situazione di disabilità, non ha nessun tipo di protezione che lo possa aiutare. Quindi in questo momento non si vuole fare la guerra tra poveri, però noi abbiamo l'8% degli utenti Caritas in Italia che ha tra i 18 e i 34 anni. Al punto tale che noi abbiamo chiamato uno dei capitoli del nostro rapporto nazionale non è un paese per giovani. Parafrasando un volume, un romanzo di Cormac McCarthy, non è un paese per vecchi. Quindi in questo senso ci sono segnali d'allarme anche su questo. La povertà energetica più forte tra i disoccupati e più forte sicuramente tra le famiglie che guadagnano poco. Vediamo le risposte adesso, andiamo avanti e vediamo verso la parte conclusiva. Come si supera il problema? Allora, o noi abbiamo un approccio complessivo alla povertà economica, o cerchiamo allora di concentrare la nostra attenzione sul problema della povertà energetica. E qui abbiamo di fronte a noi due strade. O si aiutano le famiglie a pagare, o si aiutano le famiglie a risparmiare. Allora, per quello che riguarda l'aiuto delle famiglie a pagare, sicuramente l'elemento forte che c'è in Italia è quello del bonus gas e del bonus elettrico, se ne parlerà forse successivamente. Noi abbiamo in questo momento quasi 1.600.000 famiglie in Italia che hanno il bonus elettrico e il bonus gas, devono avere certi requisiti di ISE e presentare una domanda, dopodiché esiste un sistema di accesso che ti consente di usufruire del bonus gas, del bonus elettrico. 1.600.000 famiglie che hanno in questo momento accesso ai bonus. Andiamo avanti, l'altra slide, che è interessante perché vediamo la fascia dell'esclusione. Ora, se noi incrociamo le famiglie PEC, cioè le famiglie con la povertà energetica, ma che non usufruiscono del bonus, noi abbiamo 1.784.200 famiglie che non ricevono il bonus gas o il bonus elettrico pur essendo in una situazione di povertà energetica misurata secondo i dati statistici che abbiamo visto. Quindi il sì, no. Sono povero energetico, ho difficoltà a pagare le bollette, sono in arretrato, spendo più della media dei consumi energetici che ci sono in Italia, eppure nonostante questo non ho il bonus. E poi invece ci sono 1.600.000 famiglie complessive che ce l'hanno, alcune non sono in povertà energetica. Quindi sono famiglie povere ma che non rispondono ai criteri della povertà energetica. Perché non tutte le famiglie hanno il bonus, richiedono il bonus? Questo lo diceva anche Don Luca, in Italia abbiamo in questo momento 35 misure di sostegno economico a una famiglia, tutte erogate da enti diversi, CAF, patronati, l'ASL, le agenzie di erogazione elettricità, il comune, il SIA, la pensione sociale, l'assegno di disoccupazione. Esistono 35 misure, da 25 a 35 misure in un grande comune che possono aiutare una famiglia a ridurre il livello di povertà. Riuscire a capire in questo labirinto a chi rivolgersi diventa spesso difficile, quindi anche qui c'è un ruolo informativo comunicativo che può essere sicuramente gestito. In altri casi invece la famiglia, pur essendo in difficoltà, non rientra nei parametri ISE necessari per accedere al bonus. Il ruolo Caritas quale deve essere? Non è possibile pensare a un operatore del centro d'ascolto che diventa improvvisamente un professionista del CAF. Questo è un altro punto importante da sottolineare. Noi siamo in uno sguardo sul povero, lo diceva il Vescovo all'inizio, noi diamo uno sguardo, una compagnia, una presenza, possiamo orientare. Sul territorio ci deve essere una rete di alleanze tale da poter anche accompagnare le famiglie in questo tipo di situazione. Andiamo avanti, siamo alla, penso alla terz'ultima slide, 5 minuti. Tra l'altro il bonus non ha avuto tutto questo effetto. Se noi vediamo questo grafico, vediamo che la linea sotto sono le famiglie in povertà economica col bonus, e quindi sempre quell'8% delle famiglie italiane con la povertà, in povertà energetica. Se noi avessimo tolto il bonus avremmo avuto 71.000 famiglie un po' meno povere. Quindi l'efficacia del bonus è abbastanza scarsa, perché incide veramente poco sul livello complessivo. Vuol dire che evidentemente quella famiglia non è povera solamente perché non riesce a pagare le bollette, ma è tutto il complesso del budget familiare che è difficile da risolvere. L'ultimo punto è un punto poco approfondito, su cui spesso non facciamo attenzione, l'idea del risparmio. Abbiamo detto, se ne esce aiutando la famiglia a pagare, e quindi bonus, un sostegno economico, un reddito di inserimento, un aiuto economico che ti aiuta a pagare, oppure tariffazioni sociali, oppure uno sconto sulla bolletta. E qui purtroppo bisogna dire che non tutti gli enti erogatori di energia in Italia sono così attenti a questo aspetto. Abbiamo situazioni molto diverse, con enti erogatori più attenti al sociale e altri invece assolutamente attenti solamente alla concorrenza, all'accaparramento del cliente, attraverso spesso formule contrattuali non molto corrette. L'obiettivo della strategia Europa 2020, che deve essere conseguito da tutti i paesi dell'Unione entro il 2020, oltre alla povertà c'è anche uno degli obiettivi, l'aumento del 20% dell'efficienza energetica. Paradossalmente le famiglie in povertà energetica, oltre a non poter pagare le bollette, non riescono ad essere efficienti dal punto di vista energetico, non riescono a risparmiare, e quindi alla fine c'è un circolo vizioso, perché in quel tipo di casa in cui dicevo prima, che è un difficile abitare a quel punto, non si riescono più a pagare le bollette, la casa non si riscalda, non c'è più energia, efficienza energetica, c'è abbandono dal punto di vista della manutenzione e complessivamente scade anche il livello economico del patrimonio abitativo di una città. Quindi non è più soltanto il problema di una famiglia, ma diventa il problema complessivo di tutto un territorio. In questo senso sono sicuramente utili alcune esperienze, ad esempio il bando energia della Fondazione Cariplo, anche altre fondazioni, Enrico Mattei, ad esempio, nei paesi dei Balcani, per conto della Commissione Europea, ha sviluppato un interessante approccio, che è quello del tutor dell'energia. Degli esperti di energia elettrica visitano una famiglia povera per cercare di capire come aiutarla a risparmiare un po' certi tipi di consumi. La famiglia povera che ha avuto la visita del tutor diventa anch'essa tutor e va a visitare altre famiglie povere per cercare di orientarle nel risparmio energetico attraverso un progetto finanziato dall'Unione Europea. Questo è interessante perché si stabiliscono in questo modo alleanze e diventa un po' una guida all'uso responsabile del denaro che molte carte stanno promuovendo. Noi tutti siamo a conoscenza di situazioni nei centri d'ascolto in cui il problema spesso non è la mancanza di reddito, ma una cattiva gestione del reddito disponibile. Quindi in questo senso questo tipo di budgeting, di aiuto, va in quella direzione. L'ultima slide, il fenomeno della povertà energetica in Italia nei nostri centri d'ascolto Caritas, questa è l'ultima informazione, dal 2010 al 2015, questo è un dato che ho elaborato appositamente per questo intervento, non avevamo mai approfondito questo problema, purtroppo la variabile di Caritas nazionale ha dentro bollette e tributi, quindi anche il pagamento delle tasse, non è quindi la stessa cosa. Nel 2010 il 7% delle persone che si rivolgevano alla Caritas aveva difficoltà a pagare bollette e tributi. 5 anni dopo siamo al 15,7%, quindi ho potuto riscontrare che questa difficoltà c'è. Le famiglie chiedono maggiormente di pagamento di bollette e tributi. Un ultimo dato interessante, che diceva anche Don Luca all'inizio, l'aumento degli italiani. 2010 avevamo 50-50, 50-50, un po' italiani, un po' stranieri ai centri d'ascolto che chiedevano il pagamento delle bollette. 5 anni dopo si vede la forte presenza, predominanza degli italiani, il 60% sono italiani. Ma come? Hanno una rete di relazioni, sono autoctoni, nativi, dovrebbero conoscere maggiormente le possibilità di risparmio, di consumo, le rateizzazioni possibili, eppure nonostante tutto abbiamo questa fetta di italiani che è in maggiore sofferenza rispetto a quella degli stranieri. Su questo si può dire molto, è sicuramente un testo come quello che voi avete prodotto, è un esempio illuminante. Caritas non fa soltanto assistenza, fa anche cultura. Quello che voi scrivete rimane, è un testo importante che rimane e fa cultura. Grazie a Walter Nanni per questa inquadratura della questione e anche per aver aperto lo squarcio sulla possibilità di aiutarsi anche tra poveri che hanno esperienze simili per migliorare la situazione, che è uno degli impegni che hanno anche i nostri centri di ascolto vicariali. E ora entriamo in merito al report. Se lo avete tutti fra le mani potrete seguire, immagino, anche il percorso che ci proporrà Daniele Salmaso a nome di tutto l'osservatorio. Buongiorno a tutti. Questa presentazione, per una migliore comprensione, è stata suddivisa in quattro parti: i dati generali della diocesi, i dati specifici dei singoli vicariati, un'indagine sugli enti gestori e i servizi sociali e poi i focus group con i volontari dei centri di ascolto vicariali. Tra le diverse parti abbiamo inserito una storia. La storia, come diceva Don Luca prima, ci aiuta a riflettere sulle persone, sulle loro difficoltà, ma è stata inserita anche per meglio definire i limiti tra una parte e l'altra e per comprendere meglio quindi quando passiamo dai dati generali della diocesi ai dati dei singoli vicariati. Iniziamo con i dati generali della diocesi. Le persone che sono passate in Caritas nel 2016. Nel corso dell'anno si sono presentate in Caritas, precisamente nei centri di ascolto diocesano e vicariali, 2.603 persone, per un complesso di circa 8.500 colloqui. Gli stranieri da noi sono in netta maggioranza e confermano una tendenza in atto da tempo. Però la componente italiana cresce di peso. Se ricordate, qualche anno fa eravamo 7 stranieri, 3 italiani come dato medio, adesso siamo a 6 stranieri e 4 italiani. E in alcuni contesti territoriali specifici della diocesi tende ormai ad essere 5 italiani e 5 stranieri. C'è peraltro una distinzione di merito nel tipo di approccio che è già emersa in questo tavolo. Mentre per gli stranieri Caritas rappresenta una maniera consolidata, un punto di riferimento che è presente da sempre, per gli italiani invece è una sorta di ultima spiaggia a cui approdare come tentativo per salvare una situazione, ma quando questa ormai è compromessa. Quindi si riesce a fare un intervento solamente in extremis quando si presentano gli italiani, perché gli italiani si presentano non tanto con l'ingiunzione di pagamento quanto con la sospensione dell'erogazione. Nell'afflusso prevalgono, sia pur di poco, le donne. Emerge una differenza di ruolo tra donne e uomini. Le donne si attivano tendenzialmente per risolvere i problemi legati a una quotidianità: bollette, borse della spesa. Gli uomini invece si mobilitano per questioni più pesanti, lavoro e casa. Se andiamo a vedere con chi vivono, nella maggior parte dei casi registrati nei servizi Caritas, la maggioranza dei richiedenti è rappresentata da coppie con figli. Una persona su 5 poi vive sola, sono divorziati, separati, vedovi e celibi, e compare con tutta evidenza il fatto che la povertà colpisce in maniera indiscriminata famiglie e singoli e che mette a dura prova anche le relazioni poi all'interno delle famiglie. Quanto poi possiamo osservare che c'è una significativa consistenza di persone sole che si presentano in Caritas. Il dato si può verosimilmente interpretare come un segnale che il vivere da soli presenta un costo superiore che non vivere all'interno della famiglia e di conseguenza espone a un maggior rischio di povertà. C'è anche però una quota del 17% di persone che hanno scelto di vivere in aggregato con altri. E non è sempre stata una scelta volontaria, talvolta è una scelta obbligata, conoscenti, amici, parenti, oppure ritorno alla famiglia di origine. E questo naturalmente per poter condividere i costi del vivere attraverso la formula della coabitazione. E queste spesso sono scelte forzate sotto diversi profili. Teniamo presente le persone che si separano e che hanno grossi conflitti, ma che continuano a vivere sotto lo stesso tetto, perché comunque è l'unica modalità per sopravvivere, altrimenti con il costo del mantenimento del coniuge e dei figli rischierebbero di andare veramente sulla strada. Si segnala poi la presenza di un 13% di persone senza partner che vivono con i figli. Sono quasi sempre madri che devono contestualmente gestirsi il lavoro, che non di rado è insufficiente per coprire le spese per la gestione del nucleo. Condizione abitativa, vi ricordo che sulla condizione abitativa abbiamo investito il report dello stesso anno. Se osserviamo la condizione abitativa, in quasi 6 casi su 10 siamo in presenza di persone che vivono in affitto e che faticano sempre più a sostenerne l'onere. La crisi economica, con il suo impatto, fa sì che i canoni che in passato erano sostenibili finiscano per rilevarsi troppo pesanti, con il risultato che sfociano in arretrati sempre più rilevanti, fino a innescare un percorso dell'ingiunzione e di esecuzione di sfratto. Quasi una persona su 5 può comunque contare su una casa di proprietà, ma anche in questi casi l'onere è rappresentato dal mutuo, un mutuo che con il tempo è diventato insostenibile e che è la causa di un accumularsi di debiti per i contraenti e in non pochi casi al termine del percorso la persona rischia e la famiglia rischia di rimanere senza tetto per il pignoramento e la requisizione dell'alloggio. Infine non va sottovalutata l'incidenza di persone, quasi 1 su 5, del tutto prive di abitazione, che vivono comunque in maniera precaria, momentanea ospitalità presso conoscenti, sistemazioni di fortuna e non di rado la scelta di condizioni estreme. Se osserviamo le problematiche delle persone che si presentano in Caritas, osserviamo che 6 persone su 10 sono di fronte a questioni legate a situazioni economiche per la mancanza e insufficienza del lavoro, a seguito delle quali l'interessato finisce per trovarsi con un reddito che è assolutamente inadeguato a far fronte alle esigenze quotidiane o addirittura privo di qualsiasi entrata economica. La perdita del posto, l'impossibilità a trovarne uno o anche semplicemente la riduzione delle ore lavoro, il taglio degli straordinari, ma anche forzati contratti part-time, finiscono per innescare problematiche che portano la persona nella sfera della povertà. Non va sottovalutata neppure l'incidenza della questione casa per il 13% per il collegamento che spesso presenta con le difficoltà dell'occupazione, quindi delle dirette correlazioni che prima non erano possibili ma con la perdita del lavoro sono correlate all'incapacità poi di gestire le spese di una casa. Una persona su 10 poi presenta problemi di salute. A questo riguardo va sottolineato quanto questo dato sia sottostimato. Va considerata la condizione legata alla salute, e la salute presenta sempre più problemi naturalmente con l'avanzare dell'età. Viviamo più a lungo ma con sempre maggiori problemi di salute. A sua volta questo si riflette sul piano economico e anche per le patologie croniche nei quali sono presenti i livelli essenziali di assistenza, i famosi LEA, coprono solamente parte dei bisogni e molte patologie non sono esenti dal ticket per un'elevata gamma di prestazioni. In definitiva, lievita il costo dei farmaci, lievita il costo delle indagini diagnostiche e delle terapie in genere. Però cosa accade? Perché viene fatto presente questo dato solamente nel 10% dei casi? Perché se io ho una bolletta che scade e domani mi tagliano l'erogazione di un servizio, io sono preoccupato per la bolletta non tanto per la mia ipertensione che fra qualche anno mi porta ad un infarto o per altri problemi. E quindi le patologie croniche vengono segnalate meno, non perché non ci sia presente un problema economico, è molto presente. Però io mi preoccupo della mia bolletta che scade domani. Se ricordate, lo scorso anno nel report avevamo fotografato che almeno 4 italiani su 10 nel corso del 2015 non avevano potuto accedere ad almeno una prestazione sanitaria. Se entriamo nello specifico delle problematiche economiche, possiamo cogliere gradazioni ed aspetti diversi della povertà economica. In 4 casi su 10 siamo di fronte a persone che presentano un reddito, ma che è un reddito insufficiente per garantire il raggiungimento del minimo vitale. Quel 13% di persone sole con figli, donne che si presentano in Caritas, molto spesso hanno un lavoro part-time o un lavoro che non consente loro di essere in grado di gestire le spese energetiche, di gestire la casa e di gestire poi i figli. Ancora più estrema è la condizione di una persona di 3 che denuncia una totale assenza di reddito. Infine abbiamo persone in condizioni di pesanti difficoltà, il 9% di dichiarata povertà, il 5% con dichiarata povertà e il 4% con debiti. situazioni rispetto alle quali Caritas cerca di mettere in atto dei progetti per non limitarsi al solo ascolto, ma sui quali comunque riesce ad incidere in maniera assolutamente insufficiente. Se osserviamo le problematiche abitative, spunti di riflessione vengono proposti anche dall'analisi del 13, ad esempio osserviamo il 13% delle persone che si presentano in Caritas, di queste poco meno della metà si trova di fatto senza tetto e ricorre all'ospitalità di parenti o di semplici conoscenti. Un quarto vive ricorrendo ad accorgimenti del tutto precari, grazie alla momentanea accoglienza in casa di amici o stanze prese in affitto. C'è anche un 12% che segnala di essere stato frattato e che è alla ricerca di una sistemazione, peraltro molto difficile da sostenere a causa degli oneri correlati, costo dell'affitto, spese condominiali, pagamento delle utenze. Un 8% ha dovuto comunque arrangiarsi abbandonando la propria casa e andando a vivere in alloggi decrepiti o comunque malsani. Colleghiamo questi poi all'elevato consumo energetico, perché più una casa è vecchia e più è malsana, più viene consumata poi sia elettricità che riscaldamento. Proviamo ad osservare le richieste. Dall'esame del quadro delle richieste presentate da chi si rivolge in Caritas, questo propone un'evidenza: praticamente la metà dei casi ci pone di fronte a questioni legate a beni e servizi materiali, sostanzialmente erogazioni di borse spesa, buoni pasto, il che è un chiaro indice della pesante situazione. Teniamo presente che quando siamo partiti con l'osservatorio la quota non era assolutamente al 50%. Avevamo una quantità maggiore e minore di persone che chiedevano vestiario piuttosto che borse della spesa. E questo sicuramente ci dice che lo scenario sta cambiando e sta cambiando molto velocemente. Ma è un segnale di accentuato allarme, di impoverimento anche alla presenza di una persona su tre che chiede un aiuto per il pagamento delle bollette legate alle utenze domestiche, che rappresenta poi l'approfondimento di questo report. Se accostiamo i due dati, quello precedente con questa mappa, vediamo immediatamente con chiarezza che c'è uno scarto. La possibilità di far fronte alla domanda di finanziamenti per bollette, tasse, affitto, sanità è inferiore al bisogno. Il 33% delle richieste e abbiamo un 26% delle risposte. Segno questo che in un caso su quattro i centri di ascolto vicariali faticano a rispondere ai bisogni a causa del concomitante incremento della domanda e della riduzione delle risorse. Questo non si verifica invece sul piano dei beni e dei servizi, dove la raccolta e la redistribuzione di generi alimentari e di vestiario riescono a rispondere quasi totalmente alle domande che vengono poste. Il pagamento di ticket e farmaci è un indicatore dell'attenzione di Caritas a quella che si potrebbe definire anche una povertà di tipo sanitario, in particolare delle persone che sono costrette a ricorrere in maniera sistematica alle cure, e quindi cerca di rispondere in questo modo al problema che ponevo prima sulla salute e sul fatto che molto spesso queste persone arrivano all'attenzione anche dei nostri servizi nel momento in cui hanno problemi che da cronici sono diventati da capo acuti. Se osserviamo l'insieme delle erogazioni fornite da Caritas nel corso del 2016 e osserviamo questa tabella che propone una sintesi dell'articolazione degli interventi e dimostra lo sforzo effettuato per cercare di porre argine al dilagare del disagio sociale. A fronte delle richieste per oltre 430.000 euro, sono stati assicurati importi per quasi 400.000 euro attraverso 3.300 interventi. Come si osserva dalla tabella, la voce di gran lunga prevalente, oltre la metà del totale, è costituita dal pagamento delle tasse. Terminiamo questa prima parte relativa ai dati generali della diocesi con la storia di Mara. I dati sono un indicatore, come abbiamo visto, delle difficoltà delle persone ad affrontare la quotidianità della povertà, ma come tutti gli indicatori offrono una visione che solitamente macroscopica, non entra nei problemi delle persone, non ne legge le difficoltà quotidiane, la vergogna di essere poveri, le umiliazioni di dover chiedere aiuto e di non poter rispondere ai bisogni primari dei propri figli. Come diceva Don Luca prima, le storie delle persone invece narrano queste difficoltà e queste sofferenze. Ecco che la scelta di inserire queste narrazioni ci aiuta meglio ad entrare nelle difficoltà della persona. Mara, 40 anni, vive da sola in affitto in una vecchia casa. Da 2 anni ha perso il lavoro e non riesce a far fronte al pagamento dell'affitto, alle bollette, e non ha i soldi neppure per comprarsi un pezzo di pane. In passato viveva con la famiglia, la mamma gestiva un'attività commerciale. Improvvisamente è morta. E lei e il fratello si sono trovati incapaci di gestire l'attività e hanno chiuso il negozio. La morte della madre ha portato entrambi i fratelli a uno stato depressivo. Il padre se n'è andato all'estero con un'altra donna e non si è più curato dei figli. Fino a 3 anni fa Mara viveva con il fratello, che poi le ha chiesto di trovarsi una casa in proprio perché aveva il desiderio di convivere con la propria compagna. Mara ha svolto diversi lavori temporanei e fino a un paio di anni fa ha lavorato in una sala giochi. Negli ultimi 2 anni lavora saltuariamente e la parrocchia le dà una mano con le borse spesa e con il pagamento di alcune bollette. Le ha procurato un'auto e ha pagato il passaggio di proprietà. Per il 2016 sono stati attivati i voucher attraverso il Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro. Dalla scorsa estate l'azienda erogatrice del gas le ha sospeso la fornitura in quanto non ha saldato un debito di 1.150 euro. Nell'ultimo inverno la Caritas le ha fornito le bombole del gas per cucinare e per riscaldarsi. Nel mese di dicembre i proprietari della casa, con una lettera dell'avvocato, le hanno ingiunto di lasciare l'alloggio, in quanto ormai da 2 anni non paga l'affitto. La parrocchia, per evitare lo sfratto, è intervenuta facendosi carico del canone con un contratto di ulteriori 6 mesi. A fine maggio Mara dovrà lasciare comunque la casa, in quanto i proprietari non intendono rinnovare il contratto. Se non si troveranno soluzioni alternative, si troverà senza lavoro e senza una casa. La storia di Mara ci ha permesso di chiudere i dati relativi ai centri di ascolto vicariale e ai servizi diocesani e ci apre la seconda parte di dati, che è quella relativa ai centri di ascolto vicariali. Se osserviamo questa mappa della diocesi di Padova, vediamo che è rappresentativa di una situazione estremamente variegata e complessa. La diocesi di Padova conta più di 1 milione di abitanti, che fanno riferimento a 459 parrocchie suddivise in 38 vicariati. Si estende su 5 province, con 317 parrocchie in provincia di Padova, 78 in provincia di Vicenza, 36 in provincia di Venezia, 15 in provincia di Belluno e 13 in provincia di Treviso. Il territorio è molto vario. A nord ci sono zone di montagna, a sud-est si arriva al mare, mentre nella zona centrale si estende sulla pianura padana. Oltre alla città di Padova, che rappresenta anche il centro geografico della diocesi, vi sono alcune cittadine che sono dei veri e propri poli commerciali, scolastici, sanitari ed economici. Questa estensione, però, è anche segno di una grande diversità tra le varie aree, che rappresentano problematiche assolutamente differenti e anche incidenze di povertà molto diverse l'una dall'altra. Quest'anno il report si è arricchito e restituisce alcuni dati dei singoli centri vicariali in cui sono già stati attivati i centri di ascolto vicariali. I dati forniti sono quelli raccolti direttamente dai centri di ascolto e condivisi nel sistema informativo Oscar. I dati che ciascuno di voi può osservare all'interno del report e all'interno del proprio centro di ascolto vicariale contengono il numero di persone che si sono presentati e il numero di nuovi accessi, le persone richiedenti aiuto suddivise per genere, la nazionalità, l'età media, le principali problematiche che sono state presentate, e per ogni vicariato è inserita una tabella con la composizione del nucleo abitativo. Dal 2014 la Diocesi di Padova ha avviato un'iniziativa volta a semplificare gli adempimenti contabili parrocchiali e a creare una maggiore integrazione tra la parrocchia e la Diocesi, dotandosi di un nuovo piano dei conti e di un programma SIPANET che facilita la trasmissione dei dati. È un pacchetto software realizzato per soddisfare le esigenze delle parrocchie e delle realtà ecclesiali per la loro attività quotidiana. Caritas diocesana ha chiesto anche ai centri di ascolto vicariali di utilizzarlo per avere un rendiconto trasparente ed aggiornato sulle attività. Nel 2016, 21 dei 29 vicariati hanno utilizzato questo sistema. Grazie a questo programma è stato possibile verificare che in 21 centri di ascolto vicariali sono stati impegnati un totale di 188.346 euro per il pagamento delle bollette, pari al 64% delle erogazioni complessive, che corrispondono a 293.810 euro. È un dato parziale perché non permette una panoramica su tutti i 29 centri di ascolto vicariali. Alcuni, al momento della chiusura del report, dovevano ancora completare il bilancio, né sull'intero territorio diocesano. Mancano altri 8 vicariati da attivare con i centri di ascolto vicariali. Ma è comunque particolarmente indicativa la situazione delle richieste e del peso della questione delle utenze, che arriva in alcuni centri di ascolto vicariali ad assorbire dall'80 al 100% delle risorse. C'è inoltre da ricordare che un'ampia fetta di persone bisognose non si rivolge al centro di ascolto vicariale, ma direttamente alla parrocchia. Una prima stima registra, per esempio, che in un campione di 25 parrocchie, sulle 459, in 19 vicariati, nei primi 6 mesi del 2016 sono state pagate 718 bollette per un totale di 140.971 euro, a fronte di 1.192 bollette pagate nei centri di ascolto vicariali. Qui è impossibile fare una proiezione statistica di questo dato, ma si capisce chiaramente che se 25 parrocchie hanno erogato 140.000 euro, quale potrebbe essere la spesa di 459 parrocchie in termini di aiuto. Non va dimenticato poi che non tutte le richieste di pagamento di bollette possono essere accolte e il 20% di fatto non trova risposta per una mancanza di disponibilità economica dei centri di ascolto vicariali, oppure legati a richieste improprie o a aiuti già dati o a problemi che presentano poi le persone che chiedono aiuto. Chiudiamo questa parte dei dati raccolti nei centri di ascolto vicariali e, prima di proporre una breve analisi sui dati raccolti con gli enti gestori e legati al pagamento delle bollette e dei servizi sociali dei comuni, ascoltiamo la storia di Caia. Al centro di ascolto si presenta una famiglia numerosa, con 3 bambini particolarmente vivaci. Caia, il capofamiglia, chiede subito e insistentemente lavoro, presentando i dati ISE, una serie di documenti e un fascio di bollette tutte scadute. Ci racconta la propria storia di disperazione e di angoscia. Tutti i giorni in bicicletta gira per le strade a infilare nelle cassette delle lettere materiale pubblicitario, ricevendo un compenso misero che basta a malapena a garantire un pasto al giorno. Convive con altre famiglie, non paga da mesi l'affitto, non ha un soldo per pagare la bolletta dell'acqua, così che la fornitura è stata interrotta. Per scaldarsi hanno una stufetta, per far luce una semplice lampadina. Si è rivolto ai servizi sociali, che però non possono aiutarlo. Gli si assicura che si interverrà col gestore per discutere del caso e trovare una soluzione su cui possa intervenire Caritas. Nel frattempo viene contattato un centro diurno della zona con servizi di doccia e di lavanderia e gli si fornisce dell'acqua in un paio di taniche. Caia ringrazia e in un italiano stentato chiede se può tornare la settimana successiva per ottenere altra acqua. Riprendiamo ora con l'indagine svolta dall'osservatorio sugli enti gestori e i dati provenienti da un campione di assistenti sociali dei comuni che sono state intervistate dagli operatori, dei volontari dei centri di ascolto vicariali. Per meglio comprendere questo scenario, però, è opportuno condividere alcuni dati Istat. Ritorno approfondendo un attimo i dati che abbiamo visto prima, sui quali ci aveva introdotto il relatore precedente. Aumenta in maniera preoccupante, in particolare, la quota delle persone che vivono in una condizione di povertà assoluta. Oltre 4 milioni e mezzo di individui, l'8% della popolazione italiana, ed è la soglia più alta dal 2005 ad ora. L'Istat rileva che se l'incidenza della povertà assoluta si mantiene sostanzialmente stabile sui livelli stimati negli ultimi 3 anni per le famiglie, essa cresce invece se va misurata in termini di persone. E da questo andamento noi osserviamo che il 7,6% della popolazione residente nel 2015, quando avevamo un tasso del 6,8% nel 2014. Questo andamento nel corso dell'ultimo anno si deve principalmente all'aumento delle condizioni di povertà assoluta tra le famiglie che hanno un maggiore numero di componenti. 4 componenti passano dal 6,7% del 2014 al 9,15% del 2015. Tra le coppie con 2 figli, che passano dal 5,9% del 2014 all'8,6% del 2015, e tra le famiglie degli stranieri, che passano dal 26% al 28% come dato nazionale. Ma non è tanto una questione di sud. Teniamo presente che l'incidenza della povertà assoluta nel nord è aumentata ampiamente, sia in termini di famiglie, che sono passati dal 4,2% al 5% dal 2014 al 2015, e sia in termini di persone, che sono passate dal 5,7% al 6,7%, soprattutto per l'ampliarsi del fenomeno tra le famiglie di soli stranieri, che sono passate dal 24% al 32%, quindi con un dato che è ampiamente più elevato del dato nazionale. Del resto, per quanto riguarda il contrasto alla povertà, in Italia resta ancora molto limitato il welfare dedicato alle fasce sociali che negli anni con la crisi ha visto aumentare ed aggravare il proprio disagio economico. Le spese per le famiglie e i bambini e il diritto alla casa valgono solo il 6,5% della protezione sociale italiana, contro il 10% della Germania, il 14% della Francia, il 18% del Regno Unito. Per la tutela della disoccupazione e dal rischio di esclusione, l'Italia spende il 6,5% del budget sociale, contro l'11-12% della Germania, Francia, Regno Unito e il 15-8% della Spagna. In altri termini, i gruppi sociali che in Italia hanno subito una crisi maggiore anche di altri paesi europei, di fatto hanno contributi minori rispetto agli altri paesi. A fronte di questa situazione è logico che diventa assolutamente importante un intervento da parte dei politici. È necessario a tale riguardo sottolineare che le diseguaglianze in situazioni di questo tipo diventano sempre maggiori. E osserviamo che con un dato del 2014 tendono a stabilizzarsi, restando su un livello tra i più elevati tra quelli in Europa. Il 10% delle famiglie più ricche in Italia possiede un reddito 6,6 volte superiore al 10% delle famiglie più povere. Alla canna del gas. Mai un simile modo di dire popolare, perlomeno per questo territorio, ha abbinato al significato simbolico un dato di realtà. Come nel caso delle bollette, dei servizi di base erogati dalle multi-utility, luce, acqua, gas, ora di questo tsunami della crisi economica che non cessa, sta colpendo le famiglie italiane ormai da un decennio e ha finito per abbattersi sull'ultimo livello, quello del pagamento ineludibile causa del taglio delle forniture, e sta mettendo a nudo un crescente tasso di morosità fra gli utenti. Dedicando a questo problema con pesanti ripercussioni sociali il report di quest'anno, Caritas Diocesana intende proporre un'occasione di riflessione che deve mettere in luce la carenza delle risorse, malgrado gli sforzi messi in atto sia dai servizi sociali dei comuni che da una serie di utenti del terzo settore come Caritas, le bollette relative al pagamento delle utenze domestiche di base, acqua, luce, gas, e con loro crescenti insoluti sono sempre più lo specchio di un rapido impoverimento che si va via via aggravando. Per questo Caritas Padova appunto ha deciso di focalizzare il report del 2016 su questo tema. Appare evidente allora che un'analisi di fondo sulla questione chiama in causa le politiche tariffarie degli enti gestori. Il libero mercato sta creando effetti distorsivi. La concorrenza da una parte può dare l'illusione di accaparrarsi nuovi contratti più interessanti sul piano economico, con offerte che sembrano essere apparentemente vantaggiose, presto si rilevano delle trappole punitive perché poi mettono interessi maggiori oppure hanno minore elasticità nella rateizzazione del debito. E va messo in discussione poi anche il peso che finiscono per esercitare le misure fiscali sulle bollette. Secondo i dati forniti dall'Associazione Italiana Grossisti di Energia, il gettito di imposte sull'energia elettrica e sul gas è andato via via aumentando proprio dal 2008, dal periodo in cui le famiglie sono maggiormente in difficoltà, e sono arrivate a pesare il 35% per l'energia elettrica e il 34% per il gas. Sta di fatto che tra la spesa per la casa e le bollette se ne va il 40% del reddito medio di una famiglia, 5 punti al di sopra della media europea, che si colloca al 35%. Questo incide in maniera pesante in quella condizione di povertà diffusa che sta assumendo dei contorni che sono sempre più inquietanti. Per cercare di approfondire la compressione di questo fenomeno, l'Osservatorio Caritas ha avviato contatti specifici con una serie di enti gestori dei vari servizi. Va segnalato, purtroppo, che solo alcuni di essi hanno accettato di rispondere. Altri hanno impiegato anche 5 mesi per fornire pochissimi e scarni dati, senza darne poi la possibilità di un approfondimento successivo. Di seguito si riportano le indicazioni che comunque ne sono emerse. L'insoluto medio dell'utenza domestica di energia attualmente si aggira sui 189 euro. La puntualità dei pagamenti delle bollette è andata progressivamente peggiorando e la richiesta di rateizzazione è aumentata in modo considerevole. Il margine di tolleranza in caso di mancato incasso è mediamente di 30 giorni. Vengono concesse rateizzazioni a seconda del grado di insoluto del cliente. In altri casi si ricorre alla gestione legale con diffida e decreto ingiuntivo o l'affidamento delle pratiche a una società di recupero crediti. Relativamente invece alla fornitura di acqua, la percentuale di utenti che risultano insolventi ai quali sono state inviate lettere di sollecito arriva al 30%, mentre l'incidenza delle utenze staccate è minima, si ferma allo 0,1%. L'insoluto medio di utenza domestica è di poco superiore ai 150 euro. La puntualità dei pagamenti rispetto alle scadenze è andata via via peggiorando, anche in questo caso, e il margine di tolleranza delle aziende si aggira intorno ai 30 giorni. Per quanto riguarda i servizi sociali, sappiamo che i servizi sociali rappresentano il punto di immediato contatto con le situazioni di disagio a livello territoriale. Per questo l'Osservatorio Caritas ha voluto verificare attraverso un questionario quali sono le risposte sociali fornite alle crescenti situazioni di bisogno. Il questionario è stato somministrato dai volontari Caritas dei centri di ascolto vicariali ai comuni dei territori di riferimento che si sono resi disponibili. Anche in questo caso abbiamo risposto di 19 assistenti sociali. Sostanzialmente si chiedeva quante persone venivano incontrate all'anno, quante venivano aiutate sul fronte delle utenze, il rapporto tra italiani e stranieri e tra famiglie e singoli individui rispetto alle richieste, se le modalità di risposta erano una tantum o se i comuni avevano strategie di aiuto sul pagamento delle bollette, l'eventuale collaborazione o meno con gli enti gestori, quali sono le problematiche relative all'insolvenza, se ci sono relazioni con la crisi economica, se quindi con la crisi economica la situazione si è ulteriormente aggravata e se sono stati identificati percorsi di emancipazione. Da questa piccola indagine emerge un quadro che non è statisticamente significativo per l'impossibilità di rendere omogenee le risposte che sono state molto diversificate tra i diversi comuni, ma sicuramente interessante per definire una linea di tendenza. Intanto ciò che è emerso è che è evidente la progressiva incidenza della crisi economica, che ha visto le famiglie mettere in atto tutta una serie di strategie per trovare soluzioni alternative. Hanno dato fondo alle risorse familiari, amicali, alla fine si sono trovati a raschiare il fondo del barile e quindi, quando non riescono più a dare risposte, si rivolgono ai servizi sociali del comune. È altrettanto evidente il progressivo crescente incremento degli italiani in stato di bisogno. Se in molte zone gli immigrati rimangono la maggioranza di coloro che si rivolgono ai servizi sociali dei comuni, l'incidenza dei nativi si sta rivelando però sempre più consistente ed è sicuramente destinato a crescere ancora, sia perché comincia a diventare significativo il rientro di immigrati in paesi di origine o il loro trasferimento in altre aree territoriali italiane, sia perché le possibilità concrete di guadagno, anche con lavori precari, si stanno sempre più restringendo. Le cause che portano i singoli e le famiglie a situazioni di bisogno e che provocano una quota di insoluti crescente nel pagamento delle utenze domestiche sono di varia natura. In non pochi casi chiamano in causa le fragilità personali, le dipendenze, la cattiva gestione dei consumi, crisi familiari che approdano a separazione di coniugi, ma non c'è dubbio che il primo nodo è sempre il nodo lavoro e che quindi la difficoltà poi a dare risposta è correlata alla possibilità o meno di trovare un nuovo lavoro e di garantire un reddito alla famiglia. Vanno segnalati infine comportamenti diversi degli enti gestori, alcuni dei quali sicuramente positivi, altri fortemente criticabili, e non sono rari i casi in cui la caccia al contratto da una parte induce l'utente poco preparato di suo a sottoscrivere contratti di fornitura che sembrano vantaggiosi apparentemente, ma lasciato il precedente gestore si trovano a dover affrontare formule che si sono rivelate spesso, proprio perché poco chiare, truffaldine e particolarmente onerose per la persona. Terminata questa questa parte sintetica sulla rilevazione dei dati con gli enti gestori e le assistenti sociali, prima di presentarvi i dati qualitativi emersi con i focus group dei centri di ascolto vicariale, ascoltiamo la storia di Filomena e di Rosalia. Al centro di ascolto vicariale, quasi in chiusura, si presentano due ragazze, Filomena e Rosalia, che senza nemmeno attendere le nostre domande ci illustrano la loro storia, sicure che potremmo dare loro un aiuto. Vivono in un bilocale assieme ad altre 4 persone e si dividono le spese per vivere. Non possono chiedere aiuto a casa perché i rispettivi genitori, contadini del sud già duramente impegnati, coprono i costi elevati della loro frequenza all'università e stanno sostenendo un grosso sacrificio per garantire alle figlie un futuro migliore. Le spese per affitto e bollette sono alte. Le due ragazze si danno da fare in tutti i modi per racimolare un po' di soldi. Babysitter, dog sitter, lavapiatti nelle pizzerie, ma sono comunque oberate. Tra l'altro l'utenza del gas nei mesi invernali ha rappresentato un'autentica stangata. Hanno già ricevuto un paio di solleciti di pagamento e rischiano la sospensione del servizio. Dopo aver esaminato il materiale che ci presentano, ci rendiamo conto che in effetti l'interruzione del gas è già programmata. Perciò decidiamo di farci carico di parte della spesa, spiegando loro che è il solo aiuto che siamo in grado di offrire. Da questo trovano speranza, ci ringraziano e se ne vanno convinte che la provvidenza esiste. Anzi, spiegano che passeranno in chiesa, dove Sant'Antonio si ritroverà una candela accesa in più. Vi presento adesso l'ultima batteria di dati qualitativi che sono stati raccolti con i focus group che abbiamo tenuto con i centri di ascolto vicariali. Come positivamente sperimentato anche negli anni precedenti, anche in questa edizione del report si è ritenuto opportuno integrare informazioni raccolte con una serie di elementi attinti direttamente dal territorio attraverso dei focus group con gli operatori delle Caritas, dei singoli vicariati, che operando a stretto contatto con le persone ne conoscono le storie, ne conoscono le difficoltà, hanno raccolto le ansie. E quindi questi incontri, ne abbiamo tenuti 4 nell'intera diocesi, abbiamo aggregato i centri di ascolto vicariali delle diverse aree territoriali e abbiamo tenuto un incontro a Cittadella, uno a Limena, uno a Monselice e uno a Mandria. Di seguito vi presento una sintesi di quanto è emerso da questi incontri. Allora, innanzitutto va identificato che le utenze non vengono pagate a causa dell'assenza di lavoro per l'80%, nell'80% dei casi. Però anche un 50% dei casi, ricordiamo che si sono ripresentati casi sociali, che erano i casi che avevamo solitamente in Caritas prima della crisi economica. E i casi sociali sono persone che hanno fragilità e ricordiamo che sono stati i primi a perdere il lavoro e saranno sicuramente gli ultimi a poterlo ritrovare. Oppure per entrate insufficienti in rapporto alla dimensione del nucleo familiare, oppure per l'incidenza elevata dell'affitto per chi ha appunto per gli inquilini che non dispongono di case popolari, ma anche per dipendenza da alcol, gioco d'azzardo, carcerazione del capo famiglia. I richiedenti mediamente nel territorio sono il 50% italiani e il 50% stranieri. Le richieste di intervento a Caritas riguardano tutti i generi di forniture. Caritas ha dato priorità soprattutto alla risposta per la non interruzione dell'energia elettrica, dell'acqua, ma in qualche area territoriale anche del gas e talvolta anche per le tasse per la raccolta rifiuti. Le famiglie rinunciano al riscaldamento, questi in aree molto ampie del territorio e in alcuni casi anche all'energia elettrica. I centri di aiuto vicariali aiutano gli utenti a riattivare le utenze sospese con il pagamento degli insoluti. Quindi la prima azione che cercano di fare i centri di aiuto vicariali, soprattutto laddove ci sia la presenza di minori, è quella di cercare di riattivare le utenze. Quali sono le modalità di aiuto? Innanzitutto attraverso la valutazione del reddito, per quello che l'ISE è in grado di identificare, ma poi anche con iniziative di sensibilizzazione delle persone a una lettura informata delle bollette e sul corretto utilizzo delle risorse. Viene data priorità, vi dicevo prima, alle famiglie con minori, è promosso un contatto con gli enti gestori per scongiurare la sospensione delle utenze. Ricordiamo che gli enti gestori non sono sempre d'accordo di comunicare con operatori della Caritas, ma preferiscono comunicare con i propri utenti, soprattutto quando sono svantaggiati e sanno meno difendersi di fronte a modalità tecnico-burocratiche che non conoscono. Ma viene anche anticipato il pagamento di bollette con successivo saldo del comune, un po' un'attività di pronto cassa che spesso nei vicariati avviene e poi il comune successivamente, quando ha deliberato, va a ripianare questo debito con Caritas. Il saldo poi di arretrati e viene richiesto al beneficiario sempre di concorrere al pagamento, almeno quando questo è possibile. Altre modalità di aiuto in caso di cessazione di utenze, cioè coloro che rinunciano all'uso del gas, si interviene con fonti di energie alternative attraverso stufe piuttosto che la presenza di bombole del gas per cucinare o per riscaldarsi. Si è promosso all'interno dei centri di ascolto vicariali e nelle parrocchie l'impiego di lavori socialmente utili, anche attingendo al Fondo Straordinario di Solidarietà, a progetti ETRA, a voucher, borse lavoro, ma anche ad attività parrocchiali, quindi remunerate dai singoli parroci. Si è cercato di aiutare nel processo di rateizzazione del debito, promuovendo la negoziazione, delle volte molto complicata, con gli enti gestori. Va segnalata un'esperienza che è unica di adozione di vicinato, ma io penso che questo sia uno straordinario progetto che andrebbe promosso in tutto il territorio della diocesi, che consiste nella presa in carico di una famiglia bisognosa per un periodo di un anno da parte di un gruppo di volontari, il quale si autotassa mensilmente per aiutarla a sostenere il costo di alloggio, consentendole in questo modo di utilizzare le proprie risorse su altre fonti. Questa è un'esperienza straordinaria che sta compiendo il vicariato di Selvazzano. Ma anche poi la promozione di convivenza tra diverse persone sole. Questo consente spesso di utilizzare case che sono di grande dimensione, condividendone le spese tra persone che da sole non avrebbero la capacità di reddito per gestire la casa e gestire le utenze, ma riunendosi almeno in due persone possono dimezzare le spese e quindi condividerle. In alcuni casi ci sono italiani in stato di bisogno che tuttavia non si presentano in sportelli perché si vergognano a rilevare la propria condizione. Questo soprattutto nella bassa padovana. Sono così gli operatori Caritas che si recano a casa loro per cercare di concordare forme di aiuto e di sostegno. Al termine di questa carrellata di dati, però, vogliamo anche proporvi dati che non sono molto belli e che non ci rendono sicuramente sereni, però vogliamo proporvi una storia di speranza che vuole dimostrare come il sostegno possa davvero aiutare le persone a non andare alla deriva. Elena è una ragazza nigeriana di 30 anni, volenterosa, intelligente. Nel suo paese aveva conseguito la laurea in ingegneria. Arrivata in Italia, dopo qualche tempo, ha partorito una bambina che deve accudire da sola, senza il padre. È stata seguita dal centro aiuto alla vita e ha goduto del sostegno di una famiglia per seguire la bambina. Poi i rapporti si sono incrinati ed è rimasta sola. Ha un'ottima presenza, parla benissimo l'italiano, è desiderosa di essere autonoma ed è molto imbarazzata nel dover chiedere aiuto. Arriva alla Caritas parrocchiale segnalata da un conoscente. Ha un contratto di lavoro a termine e lava piatti in un albergo termale, ma il reddito è insufficiente e ha difficoltà a sostenere il costo del nido, dell'affitto e delle bollette da pagare. La Caritas parrocchiale l'aiuta con le bollette. Qualche mamma le dà una mano accudendole la bambina quando termina l'orario del nido e lei è ancora impegnata al lavoro. Nelle domeniche, in cui non è occupata, cerca altri lavoretti per arrotondare lo stipendio. Nel tempo libero traduce testi dall'inglese. Terminato il contratto a termine, rimane senza lavoro. Gode del sussidio di disoccupazione, ma i soldi non bastano per vivere e mandare al nido la bambina. La parrocchia attiva i voucher attraverso il Fondo Sociale Straordinario per il Lavoro. Nel frattempo Elena trova un impiego come apprendista operaia presso un'azienda meccanica. Ora ha cambiato residenza per essere più vicina al posto di lavoro e può risparmiare andando a lavorare in bicicletta. Sta frequentando la scuola media serale in quanto la sua laurea nel nostro paese non è spendibile. Nei mesi scorsi, tuttavia, il lavoro ha scarseggiato e l'azienda le ha ridotto le ore lavorative. Ancora una volta si è vista costretta a ricorrere all'aiuto del centro di ascolto vicariale per affrontare la spesa delle bollette che non riesce a pagare e per la borsa spesa. Una volontaria del centro di ascolto, saputo che nella propria azienda cercavano personale da assumere, ha proposto alcuni nominativi di persone in difficoltà. Elena è stata contattata, ha superato la prova e inizierà a breve il nuovo lavoro che le garantirà un reddito più costante. Siamo convinti che Elena possieda la volontà e le risorse personali per diventare autonoma e condurre una vita dignitosa e indipendente con la sua bambina. Averla sostenuta in questi momenti di incertezza è stato fondamentale per promuovere il loro futuro. Con la storia di Elena termina la presentazione del report 2016. Mi scuso se vi ho annoiato con questi dati e se ho fatto un po' di confusione e vi ringrazio per l'attenzione. Daniele, non ci hai annoiato. Grazie, anzi credo che ha fatto veramente una panoramica molto precisa di tutto questa ricchezza di materiale, anche se il termine ricchezza entra un po' in contrasto con i temi che abbiamo toccato. Grazie veramente, perché è stato un quadro interessante. Poi il report alla fine si arricchisce anche di altri strumenti. C'è un vademecum preso dall'Atlante dei diritti del consumatore di energia dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, in cui spiega proprio come si muovono anche i gestori e quali sono i tempi per le scadenze, eccetera. Quindi può essere uno strumento utile anche per i centri di ascolto vicariali per dare ulteriori informazioni. Si diceva prima, no, la mancanza di informazioni a volte è il primo limite per superare il problema. E poi ci sono c'è il quadro anche sugli altri servizi specifici di cui vi parlavo prima, oltre ai centri di ascolto e al servizio segno diocesano, il Fondo di Solidarietà Straordinaria per il Lavoro, lo sportello disagio economico finanziario e poi il poliambulatorio Caritas Cua, tra cui emerge un dato anche qui mi sembra significativo. Il poliambulatorio fornisce cure soprattutto odontoiatriche. Nel 2016 l'affluenza è stata di 525 persone, di queste 240 erano nuovi pazienti. Credo che anche questo sia un dato interessante. Bene, siamo perfettamente dentro ai tempi, quindi io chiederei a Don Luca e eventualmente anche al Vescovo Claudio se vogliono un pensiero conclusivo a questa mattinata così ricca di stimoli, anche oltre che di amarezza per una fotografia che comunque porta dei dati negativi a volte. Beh, desidero ringraziare Daniele per lo sforzo di sintetizzare questo grande lavoro e mette a disposizione insieme con gli altri volontari gratuitamente le sue competenze e quest'anno ci ha messo anche a disposizione il disegno, quello dell'iniziale, proprio di Daniele, insomma, per cui veramente grazie anche di questo tocco di bellezza, ecco, perché abbiamo bisogno di bellezza. Poi più che un atteggiamento passivo, negativo, partiamo dalla consapevolezza di quello che ci dice Papa Francesco, che la realtà è superiore delle idee. Cioè bisogna partire dalla realtà, così com'è, imparare proprio a guardare la realtà con le sue povertà, chiamarle per nome, ma anche scovare lì dentro le risorse. Ecco. Per cui lo sguardo sulla realtà proprio in atteggiamento propositivo è partire dalla realtà vera, nuda, cruda, ma anche con le sue potenzialità per uscire insieme a trovare delle soluzioni. Per cui veramente il desiderio non è proprio di piangerci addosso, anzi è l'opposto, è proprio a partire dalla realtà, ma per costruire una comunità più umana e più civile per tutti, insomma. Per cui veramente questa è la nostra intenzione, sempre partire dalla realtà, ma propositivo, ecco. Il nostro atteggiamento vuole essere sempre costruttivo e propositivo. Per cui veramente concludo con il grazie a Don Claudio che ci sta accompagnando e un grazie veramente a tutti i volontari che gratuitamente, quotidianamente prestano servizio a favore della Chiesa e a favore delle persone. Grazie. Quando terminata la messa il diacono dice andate in pace, cioè ci manda nel mondo, no? Mi sembra che possa essere detto anche così, andate a fare la pace, a costruirla, cioè abbiamo fatto un momento di preghiera, adesso tocca a noi impegnarci. Ecco, mi sembra che questo ascolto a me ha provocato quasi la richiesta di un mandato nei confronti di tutti noi e soprattutto degli operatori e animatori delle Caritas parrocchiali, dei centri di ascolto vicariali. Dobbiamo andare nella realtà, perché abbiamo ascoltato queste idee che l'hanno in qualche modo rappresentata, prendendo uno spicchio, che è quello delle bollette. Però, come diceva adesso Don Luca citando il Papa, la realtà è molto più complessa ed è superiore alle nostre idee. E quando andiamo a vivere dentro le storie ci accorgiamo che è difficile descriverle e raggrupparle, confezionarle dentro un discorso. E quindi noi siamo molto esposti e molto liberi e dobbiamo essere anche molto creativi nel camminare nella realtà. Ed è per questo che è anche molto importante un altro aspetto che dobbiamo assolutamente sostenere, quello della capillarità della nostra presenza. Non andiamo a cercare la specializzazione concentrandoci, cioè in un centro di ascolto diocesano potrebbe avere forse strumentazioni, qualità migliori, ma questo essere capillari è ciò che ci permette di entrare dentro la realtà, dove ci sono queste storie e queste fatiche, e che forse non conosciamo ancora abbastanza, perché la realtà è superiore a quello che noi ci rappresentiamo. E quindi il mio è un invito a continuare il servizio che avete iniziato, anzi, a chiamare altri ad aiutarvi, perché c'è tanto bisogno, come si vede, di lettura, di ascolto, di sguardo, c'è bisogno di quelle cose di cui abbiamo parlato. Quindi abbiamo ascoltato e andiamo a casa con un mandato di essere davvero dentro questa nostra realtà con impegno e anche con gioia, perché si capisce qual è la nostra missione, anche in questo modo. Grazie della vostra presenza. I giorni della Chiesa. Grazie anche da parte nostra a tutti gli intervenuti, il Vescovo Claudio, il Vescovo di Padova, Walter Nanni di Caritas Italiana, Don Luca Facco della Caritas Diocesana e poi Daniele Salmaso, responsabile coordinatore dell'Osservatorio delle Povertà e delle Risorse della Caritas di Padova. Grazie a Sara Melchiori, ufficio stampa della Diocesi di Padova, che ha coordinato gli interventi, Francesco Galante per la registrazione in loco, e grazie anche alla parrocchia di Sant'Antonino dell'Arcella a Padova, e di Daici per la regia qui in studio. Da Mirko Cavallini a voi tutti, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto. Giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.